Ma davvero non c'era mai stato un gruppo chiamato Mojo Wizard nel mondo del rock? Evidentemente no, perché adesso ci sono loro, una band canadese che per la precisione ci saluta da un paesino chiamato, e adesso vado a cercarvelo, eccolo, Sherbrooke, nel Quebec. E nel Quebec, allora, buonasera, ben ritrovati per una nuova puntata di Up Rock e dintorni a 360 gradi, musica per ogni genere. E qui Nicky D'Andrea vi terrà compagnia come ogni venerdì, alternandosi poi con il validissimo Alberto Collino, che saluto se mai fosse all'ascolto, e con Maurizio Capobianco, che tornerà nelle prossime settimane a condurre questa trasmissione chiamata Up, che va in onda ogni venerdì appunto su Radio Onde Furlane. Allora, abbiamo iniziato dunque con questi Mojo Wizard, che, come dice qualcuno, magari non rivoluzioneranno il mondo dello stoner rock, però hanno fatto un disco che per gli amanti del genere può essere un piacevole ascolto. Loro sono in quattro e sono Rico Desjardins, voce e tastiere, Guillaume Couture al basso, Maxime Lussier alla batteria e alle percussioni e Karim Msalem alla chitarra, un prode chitarrista che effettivamente sa suonare il genere. E detto questo, insomma, ricordo, abbiamo ascoltato un brano tratto dal loro esordio, hanno pubblicato due EP, ma questo è proprio il loro primo album, The Mystic Peephole, che non è la gente mistica, ma è il buco dove si guarda. E di solito si guardano cose un po' oscene, comunque un po' particolari. Comunque questo è il peephole, perché comunque è un gioco di parole abbastanza carino per questi Mojo Wizard. Anche la copertina sembra un po' un così, non dico una presa in giro del genere, ma un po' come vi ricordate certe cover truculente del metal più estremo. Qua si vede un hippie che apre il suo cappottino e si vede appunto questa sorta di vortice all'interno del cappotto, insomma una cosa, una via di mezzo tra il pacchiano e il divertente. Comunque il saper riconoscere i limiti di un genere che comunque dà anche spazio, devo dire, ha una certa sperimentazione, limitato relativamente se vogliamo, perché comunque è possibile all'interno dello stoner o comunque dell'heavy psych rock di poter provare a mandare in avanti i limiti di determinati strumenti, in particolare la chitarra, ma anche in certi casi le tastiere, che non fanno per niente da contorno, ma che si cimentano in vere e proprie cavalcate, come quelle che avete ascoltato in questo bel brano dei Mojo Wizard. Prossimo brano per Alberto Turra, che ricordo intervistai un po' di mesi fa, e adesso nel frattempo è uscito anche il suo nuovo lavoro, e lui ci ricorda che è meglio non viaggiare con la gente morta. It is preferable not to travel with dead people, titolo un po' inquietante per Alberto Turra e per questo suo live, ma noi ci andiamo ad ascoltare appunto il brano che conclude questa esperienza discografica di Alberto Turra, e ovvero il brano che porta il titolo di Cellule. Thank you.

E lasciamo lo stralunato Alberto Turra con il suo recente album live It is preferable not to travel with dead people, e per passare a un altro mago della sei corde. Lui, l'abbiamo presentato la settimana scorsa, è Paolo Taviano, ma in questo lavoro usa il moniker Zero Summer, trovate l'intero lavoro su Bandcamp e l'album porta il titolo di Escapes. Questa sera noi ci troviamo, ci ritroviamo ad ascoltare il brano numero 2 del disco, ovvero So Human, So Blue.